abbiamo il piacere di ospitare direi una protagonista di rilievo nel panorama dell'arte contemporanea che è Cristiana Perrella, che è qui seduta già in cattedra e che ringraziamo moltissimo per aver accettato il nostro invito. E come sapete, questa lunga serie di incontri all'interno del laboratorio di sintesi che prevede anche la presenza dei direttori e delle direttrici dei musei che noi abbiamo selezionato e potrebbe esserci utili soprattutto per il lavoro di sperimentazione che state conducendo, si avvalgono anche del lavoro di questi studiosi professionisti che hanno saputo e sanno, secondo noi, integrare non solo il rigore accademico, ma direi anche una curatela innovativa e soprattutto una spiccata capacità di gestione istituzionale, che non è una cosa da poco, soprattutto quando parliamo della istituzione museale. Cristiana Perrella è romana, si è laureata in lettere presso l'Università Sapienza, quindi è una sapientina, e ha conseguito anche una specializzazione in storia dell'arte all'Università di Siena. Nel corso della sua carriera ha diretto prestigiose istituzioni culturali, tra cui il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, fino al 21, dal 18 al 21, e in questo incarico ha rilanciato il museo attraverso mostre e artisti di primo piano, rafforzando la centralità delle istituzioni sia a livello nazionale che internazionale. Ha svolto anche un ruolo chiave presso la British School of Rome, at Rome, dove ha diretto il Contemporary Art Program dal 98 al 2008, soprattutto indirizzato all'arte giovane contemporanea. La sua attività è versatile, io non posso citarla tutta perché sarebbe una cosa lunghissima, però direi che è anche impegnata nell'insegnamento, attualmente credo che insegni management ancora, ed economia delle arti all'Università San Raffaele di Milano, e poi ha guidato il Milano Design Film Festival e dal 2025 è direttrice del Macro di Roma, che è stato prima affidato alla cura di Giorgio De Filis e che è un'istituzione di riferimento, direi, per la scena artistica capitolina. È stata nominata recentemente dal Presidente della Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon da Papa Leone XIV, un incarico molto prestigioso che premia anche l'impegno nel campo delle arti visive e della cultura istituzionale. Direi che il riconoscimento che gli è dovuto è soprattutto questa capacità di coniugare questa rigorosa preparazione accademica a una gestione anche dinamica, ponendosi come punto di incontro tra tradizione e innovazione nel contesto dell'arte contemporanea. Devo menzionare la cura del progetto Conciliazione 5, che è stato lo spazio espositivo della Santa Sede inaugurato in occasione del Giubileo 2025, che è proprio un esempio di questa sinergia tra arte, cultura e società. Quindi avete il piacere con noi di ascoltare oggi una curatrice, una critica d'arte di grande esperienza e direi anche un modello di leadership culturale, perché credo che i fatti lo dimostrano, noi gli auguriamo un grandissimo lavoro al macro perché ce n'è bisogno e sono certo che susciterà l'interesse e l'apprezzamento di voi tutti, cari studenti e studentesse. Quindi ringrazio la direttrice per aver accolto il nostro invito e le cedo volentieri la parola. Ringrazio voi per l'invito. Ecco. Tra le cose che sono state dette, grazie, su di me, forse direi, sintetizzando, che un aspetto per me importante è stata l'alternanza durante tutta la mia carriera di momenti all'interno di istituzioni e di momenti invece di lavoro libero professionale come curatrice indipendente. Questo mi ha dato la possibilità di giocare su due tavoli, capendo con l'avanzare degli anni che forse la cosa che mi interessava di più era proprio lavorare con l'istituzione, perché credo che il lavoro in continuità rivolto principalmente insomma a delle comunità individuabili, a delle comunità situate come sono quelle appunto del luogo in cui l'istituzione si trova ad essere, sia la cosa che probabilmente mi interessa di più, proprio per la portata anche politica che il lavoro culturale può avere in questo caso. Sicuramente lavorando con una, come curatrice indipendente, io ho sempre lavorato comunque in ambito istituzionale, quindi lavorando sempre con musei o con fondazioni, per caso, non tanto per scelta, ma non mi sono mai occupata ad esempio di mercato. Ho lavorato veramente pochissime volte con gallerie private e ho sempre lavorato appunto invece con spazi pubblici e appunto nel caso del lavoro con alcuni di questi, per esempio Fondazione Prada, ma anche Fondazione Golinelli, che è una fondazione bolognese che si occupa in particolare dei rapporti tra arte e scienza, ho avuto la possibilità per esempio di sviluppare progetti espositivi con una disponibilità di mezzi non soltanto economici ma proprio anche in termini proprio di libertà ideativa che devo dire onestamente l'istituzione pubblica molto spesso fatica a garantire. Però nonostante questo appunto invece credo che almeno per me il lavoro in istituzione pubblica abbia comunque un senso più profondo e quindi è con molta gioia che ho accolto questo incarico al macro che veniva a 4 anni circa dalla fine della mia direzione al centro Becci di Prato. Macro è un museo che ho sempre frequentato, devo dire ho frequentato proprio dai suoi inizi. Oggi vi racconterò brevemente anche la storia di questa istituzione. Prima di tutto vorrei sapere una cosa, chi è di voi che è stato il macro? Noi non alziamo la mano, vabbè. Sarebbe imbarazzante. Okay. Quando ci siete stati? Cioè, quando avete iniziato ad andarci? Qualcuno parli? Vabbè, sì. Un paio d'anni fa. Beh, sono ragazzi del quinto anno. No, certo. Beh, del quinto anno, sì, comunque. Sì. Quindi comunque è un periodo universitario. Con la direzione, quindi ancora la direzione Lovinto. Quindi non tutti, ecco, è un museo, macro che in realtà nasce più che tanti anni fa, più di un secolo fa qua, perché comunque è nel 1883 che si pongono le basi di questo museo, quindi in un momento in cui vengono acquistate delle opere d'arte contemporanea, allora contemporanea, per fondare una galleria civica. La galleria civica si era abbastanza ridosso del Nord d'Italia, quindi questo tema delle collezioni cittadine che andassero sia a lavorare sul territorio ma anche a contribuire alla crescita culturale del nuovo Stato italiano era qualcosa di molto vivo e presente su tutto il territorio nazionale e Roma ovviamente non fa eccezione, acquista questo nucleo di opere, ma in realtà prima che queste opere trovi in una qualche casa, passa molto tempo, perché è nel 1925 che si individua la prima sede per questa collezione a Palazzo Caffarelli in Campidoglio, e però nel corso degli anni la collezione, anche prima di questo 1925, la collezione cresce attraverso acquisizioni nelle grandi rassegne italiane, quindi biennali e quadriennali, con l'idea di acquisire opere che in qualche modo certifichino il rapporto degli artisti con Roma, quindi non solo opere di artisti romani, ma opere di artisti che sono state esposte a Roma, che in qualche modo sono state rilevanti per la vita culturale della città. È solo dunque molto più avanti, però, dopo molte altre, diciamo, peregrinazioni di questa collezione che non sto a raccontarvi, però questo semplicemente per dire che Macro ha avuto, diciamo, dalle sue origini una storia abbastanza movimentata, se non travagliata. Ecco, è soltanto in un'epoca recente, nel 1989, quindi veramente tanto tempo dopo la scelta della prima sede, che viene decisa una sede permanente per la collezione civica, ed è uno degli spazi della Birra Peroni, di questa, appunto, fabbrica di birra che nel quartiere Salario Nomentano prende molti edifici. L'edificio scelto in particolare per diventare, appunto, sede della collezione è quello che una volta era adibito a fabbrica del ghiaccio e a scuderie, perché è stato detto recentemente nell'Ottocento la birra a Roma non aveva quasi nessuno, e quindi per fare marketing la birra veniva regalata a chi comprava il ghiaccio. Quindi la fabbrica del ghiaccio è in realtà una parte importante del progetto Peroni, ed è proprio in questo edificio che, appunto, si decide di dare una casa definitiva a questa collezione d'arte contemporanea, che nel frattempo è cresciuta in maniera un po' discontinua, accidentata, però insomma c'è ed è importante. E, l'edificio apre dopo il restauro 10 anni dopo, nel 1999, come Galleria Comunale d'Arte Moderna e Contemporanea. Però gli spazi espositivi subito si dimostrano inadeguati, anche i depositi, per cui immediatamente nel 2000 viene fatto un concorso d'architettura per ripensare e ampliare gli spazi della Galleria Comunale, concorso vinto dall'architetta francese Odile Deck, con un progetto abbastanza, potremmo dire, futuristico, che lavora a contrasto con l'architettura industriale dello spazio Peroni, e invece porta, appunto, una componente, diciamo, dei segni molto, molto forti in questo contesto. E nel 2001, quindi con il concorso appena concluso, Walter Veltroni, che era sindaco da poco, decide di rifondare questo spazio con un nuovo nome e una nuova funzione, e nasce, appunto, il Macro, il Museo d'Arte Contemporanea della città di Roma. E la collezione a questo punto viene divisa, la parte, diciamo, anteguerra viene distaccata presso la Galleria Comunale d'Arte Moderna, quella che adesso ha sede a Via Crispi, mentre la parte più contemporanea viene attribuita al Macro. Direttore del Macro, del nuovo Macro, è Danilo Ecker, che è un curatore critico che veniva, appunto, da esperienze di direzione museale importanti come la Galleria Civica di Trento o il Mambo di Bologna, e nel 2000, e sempre, appunto, nel 2002 Ecker inizia il suo progetto di Macro. Macro all'epoca viene anche arricchito, diciamo, da un altro spazio che all'epoca si chiamava Macro Future, per un caso l'ho inaugurato io con il mio progetto, una maratona notturna di video internazionali, però il carattere di questo spazio, al mattatoio, era proprio quello di offrire la possibilità per una programmazione più sperimentale, più giovane, e soprattutto aveva degli orari assolutamente inconsueti per Roma a quel tempo, perché rimaneva aperto fino a mezzanotte, trovandosi proprio in un contesto cittadino, diciamo, più votato anche alla vita notturna e comunque alla frequentazione di un pubblico giovane. E il progetto di Odile Deck vede la luce soltanto parecchio tempo dopo, nel 2010 si inaugura, e si inaugura, scusate la lineata qua comunque, questa è la parte, per chi non la conosce, insomma, è la parte ex Villa Peroni dell'edificio, nella, lo vedete appunto nel suo restauro di fine anni 90, con questa galleria vetrata che copre lo spazio del cortile interno e questi due ponti vetrati che permettono un attraversamento anche tra le due parti dell'edificio in quota ai due piani. Questo invece è il modo in cui l'ampliamento di Odile Deck si inserisce nel vecchio edificio, nell'angolo che c'è tra via Cagliari e via Nizza. E appunto Macro inaugura nel 2010 in contemporanea con Maxi, con il nuovo Maxi disegnato da Zaha Hadid. E questo è interessante perché è in qualche modo il momento culmine di una sorta di rinascita contemporanea di Roma, rinascita diciamo focalizzata soprattutto sull'architettura, perché a partire dal Giubileo del 2000 vengono comunque aperti a Roma cantieri affidati anche ad architetti molto noti come appunto Richard Meyer, Renzo Piano, la stessa Zaha Hadid, Odile Deck e poi molti altri, proprio a segnare un cambio di passo per una città che nei decenni precedenti è stata abbastanza immobile per quanto riguarda appunto il segno di un'architettura contemporanea. Ma per Maxi inaugurano insieme, addirittura concordando un sistema di navette che da un museo portava all'altro. In quel momento inaugura a Roma anche una nuova fiera per l'arte contemporanea, che invece sceglie di avere sede nei palazzi storici, quindi di portare contemporanei a contatto con la lunga tradizione, insomma, artistica romana. E in quel momento sembra che Roma appunto possa essere la nuova capitale del contemporaneo italiano. In realtà una promessa che non si è propriamente realizzata. Questi sono gli spazi interni all'ampliamento di Odile Deck. Come vedete appunto il segno è molto forte a partire proprio dai colori che sono stati scelti, quindi nero e rosso, ma anche dal modo in cui proprio si articolano gli spazi. Per me è una delle cose più interessanti del progetto di Odile Deck, che ho visto che recentemente è venuta a Roma a rivedere il museo dopo molti anni, perché è una cosa molto strana che succede secondo me, ma questo probabilmente riguarda più la vostra parte che la mia in questa, insomma, in questo ambito, è che i grandi progetti normalmente affidati dalla politica, dall'amministrazione pubblica agli architetti vengono realizzati molto spesso senza dare la direzione anche dei lavori all'architetto che invece ha realizzato il progetto, e comunque una volta che il progetto viene consegnato c'è una specie di dannatio memoria, io non ho mai capito perché, per cui l'architetto non viene mai più consultato per qualsiasi cosa che succede a quell'edificio, che sia la maniera migliore per utilizzarlo, che sia un intervento che va fatto, che sia un problema che c'è, che ci può essere, l'architetto all'improvviso viene completamente estraneato dalla vita dell'edificio che ha progettato. Ed è stata la stessa cosa con il Deck, che praticamente è tornata a Macro dopo molti anni e gli ha detto cose anche piuttosto interessanti sul modo in cui lei aveva immaginato il museo in relazione al contesto, perché Magro, come insomma penso sappiate, è all'interno di un municipio, dal secondo municipio, di un quartiere, appunto quello Solario Nomentano, molto particolare. È uno dei quartieri a non solo a più alto reddito d'Italia, una delle zone a più alto reddito d'Italia, ma sicuramente anche il quartiere più ricco a Roma, ha una popolazione molto avanti con gli anni, in paragone anche appunto ad altri municipi romani, e una struttura molto compatta che offre pochissime piazze, per esempio. Questa è una cosa che aveva colpito con il DEC, il fatto che mancassero spazi pubblici in quel quartiere. Quindi la sua idea di Magro parte proprio da quest'idea dello spazio pubblico, e lo spazio pubblico è rappresentato soprattutto da un sistema di passaggi che da via Reggio Emilia taglia fino a via Nizza, e sono passaggi immaginati proprio come delle vere e proprie piazze, quindi la galleria vetrata, il cortile che vi ho fatto vedere prima, questo foyer, questo atrio, che ha delle dimensioni veramente generose sia in altezza che proprio in estensione, e che continua con un'altra piazza che è il tetto dell'auditorium, di questa specie di solido rosso che vedete qui a sinistra, e che anche trova una sorta di rispecchiamento nella terrazza che copre questa parte del museo, una terrazza molto grande, e che lei mi ha raccontato essere stata pensata come un luogo proprio di anche programma pubblico, addirittura facendo verniciare di bianco le facciate cieche di due degli edifici che si affacciano sul Magro, immaginandole proprio come degli schermi di proiezione per poter fare per esempio cinema all'aperto nelle notti d'estate. Il quartiere non è proprio così felice di accogliere Magro come un luogo che gli diventi che in qualche modo disturbino la quiete. Forse Giorgio ne sa qualcosa, ma anch'io sto iniziando a vedere una resistenza preventiva nel mio caso, perché io ancora non ho iniziato a fare nulla, perché io sono arrivata a Magro a maggio scorso, e la mia idea era appunto di aprire il museo ad ottobre con una prima mostra, e poi di completare il programma appunto a dicembre. In realtà un problema strutturale che c'è stato imprevisto ha portato al ritardo di ulteriori due mesi sulla riapertura, quindi apriremo a questo punto tutto il museo a dicembre, e quindi finora fondamentalmente non ho fatto nulla, e tranne un evento che ci sarà ora il 1 novembre, a cui vi invito, che è nel quadro delle celebrazioni del cinquantenario dalla morte tragica di Pasolini, e noi lo segnaleremo proprio con una giornata intera di attività, che nel pomeriggio vede coinvolto sempre Giorgio De Finis con il suo museo delle periferie, e con una riflessione proprio su Pasolini e sull'eredità coloniale a Roma, e invece la sera vedrà l'anteprima nazionale di uno spettacolo di Enzo Cosmi, un coreografo romano di lunga storia, dedicato proprio a Pasolini. Quindi siete tutti invitati anche il 1 novembre a questa giornata. A parte questa giornata, non ho fatto nulla, però ho già ricevuto notevoli segnali dal quartiere che la quiete non deve essere disturbata. Invece io credo che un museo alla fine debba anche disturbare la quiete, perché la quiete è uno stato proprio anche impossibile, no? La morte, se vogliamo. Quindi forse tutto sommato credo che sia anche un'istituzione come il Magro quella di ricordare che anche il tempo fuori dal tempo del lavoro è tempo di vita, e tempo molto vitale. Quindi alla fine penso che il quartiere sarà disturbato un po'. E questo è il sistema passerelle aeree che il DEC ha pensato in tutta la parte nuova del museo, con l'idea proprio di permettere altri punti di vista sulle cose, no? Quindi anche dall'alto. Questo sistema di passerelle gira in tutto il foyer ed entra anche nello spazio espositivo, che quindi ha questa sorta di mezzanino, balconata. La cosa interessante che mi raccontate è che anche questo spazio principale del museo, per chi non l'ha visto, è uno spazio veramente molto grande, l'altezza sono 12 metri. L'estensione è di, non mi ricordo quanti metri quadri, ma insomma davvero notevole. Immaginate che la lunghezza dello spazio è oltre 70 metri, quindi insomma parliamo proprio di volumi molto importanti. E l'idea che il DEC era che questo volume della sala principale fosse illuminato dalla luce naturale, quindi aveva predisposto un sistema di lucernari a nord. E la cosa interessante è che questi lucernari diventavano un ulteriore punto di vista perché si aprivano sulla terrazza, quindi l'idea era che anche dalla terrazza, ovvero da uno spazio come il foyer all'entrata gratuita di libero accesso per i cittadini, fosse possibile avere una visione di quello che succedeva all'interno delle sale espositive, che quindi potevano essere osservate da addirittura tre punti di vista differenti. Questa è la pianta generale, quindi vedete a destra, no, alla vostra sinistra, a destra, l'edificio vecchio. L'edificio storico è un edificio molto, diciamo, regolare, no? Offre sei sale espositive di circa 120 metri quadri ciascuna. Al primo piano se ne trovano una e una, nelle due parti. Al secondo piano sono sale gemelle, di fronte all'altra. Tutto questo è raccordato da due corpi scala, da un lato e dall'altro, e al piano terreno invece si aprono degli spazi che sono spazi che erano stati pensati con delle funzioni differenti da quella espositiva. Quindi c'era una sala conferenze, una biblioteca e mediateca. Ecco, questa, la sala conferenze è rimasta attiva, in qualche modo è stata raddoppiata nella funzione dall'auditorium, quel volume rosso che vi mostravo prima, e quindi in qualche modo, diciamo, queste due cose hanno lavorato insieme, ma anche un po' sovrapponendo delle funzioni. In realtà, senza che nessuno dei due spazi, ad esempio, garantisse la possibilità di proiettare materiali filmici con una qualità adeguata. E quindi, per esempio, tra, ma questo magari ne parlo dopo, di come ho pensato di rivedere queste funzioni. La biblioteca invece è chiusa dal momento in cui il museo ha avuto una storia di governance molto complessa. È nato, diciamo, quando c'era Danilo Ecker, quindi quando è nato come macro nel 2002, come un ufficio del comune, del Dipartimento Cultura del Comune di Roma, e poi passato sotto Sovrintendenza Capitolina, per approdare dal 2017 alla gestione di Azienda Speciale Pala Expo, che è una partecipata del Comune di Roma che si occupa appunto della gestione di alcuni spazi culturali. Attualmente, oltre a Macro, c'è il Museo delle Periferie, c'è il Palazzo delle Esposizioni e c'è Mattatoio, che proprio dal 2018, no, dal 2018, esatto, per colpa tua, è stato tolto a Macro come spazio off ed è diventato invece uno spazio a sé stante, che ha avuto una storia anche quella abbastanza complessa. E dal 2017, quindi dal momento in cui Sovrintendenza non si occupa più della gestione di Macro, la biblioteca è stata chiusa, anche la mediateca, e anche la collezione, che è la famosa collezione diciamo contemporanea, che ormai contemporanea non è più perché è una collezione prevalentemente novecentesca, che era stata appunto destinata a Macro, in realtà non è stata più accessibile, o almeno non è stata più pienamente accessibile, perché è rimasta, diciamo, proprietà di sovrintendenza, e d'altronde azienda speciale proprio per la sua essenza giuridica non può possedere patrimonio, e è stata chiusa in questo spazio che vedete qua. Qua c'è un lucernario nel mezzo del cortile da cui si vede sotto l'esistenza di questa collezione un po' fantasmatica, da lì praticamente è uscita molto raramente, recentemente è stata fatta una mostra al Museo Bilotti, ma insomma sostanzialmente rimane inaccessibile. E allora, cosa dal 2017, dicevo, il Magro ha assunto la governance attuale, quindi una governance che vede azienda speciale Palaexpo occuparsi per quanto riguarda la parte amministrativa e anche quella operativa, mentre la programmazione è affidata a direttori scelti appunto tra addetti ai lavori e non funzionari. In passato Macro aveva avuto un'alternanza, perché dopo Danilo Ecker c'era stato Luca Massimo Barbero e poi Bartolomeo Pietromarchi, cioè persone comunque che hanno una carriera curatoriale e critica. Poi invece c'è stato un periodo in cui la direzione è stata affidata a funzionari della sovrintendenza, per poi con il 2017 appunto cambiare di nuovo e a quel punto assumere, secondo me, un'identità molto interessante, perché io credo che Macro sia l'unica istituzione contemporanea in Italia che in questi ultimi anni si è realmente interrogata su quale sia il suo ruolo, su come cambia oggi il ruolo di un museo, come cambia e si è cambiato oggi il ruolo di un museo d'arte contemporanea. Nessun'altra istituzione, secondo me, si è posta questa domanda e soprattutto ha cercato poi anche una risposta con la radicalità che ha caratterizzato l'attività di Magro dal 2018 in avanti, perché con prima la direzione appunto di Giorgio De Finis, poi con quella di Luca Rovinto, Magro è diventato veramente un laboratorio di museologia. Le loro due, diciamo, proposte sono due proposte, direi, assolutamente polari nell'approccio. Giorgio, mi fa un po' strano parlarne così con lui seduto qua, però lo farò lo stesso, ha pensato al museo come a una piattaforma, io dico, per user generated content, quindi una piattaforma aperta, non selettiva, anzi inclusiva, dove veniva, diciamo, accantonata l'attività espositiva per quella che è normalmente l'attività di un museo, quindi un'attività determinata dalla scelta di direttore e curatori, ma invece questa funzione veniva lasciata aperta alla proposta di persone, perché poi in realtà non era nemmeno richiesta la certificazione, diciamo, no? Come artisti, ma la possibilità era di presentare il proprio lavoro, le proprie idee all'interno di spazi a questo destinati del museo, con appunto una modalità, direi, autogestita, in cui il museo fondamentalmente creava una grande griglia e anche dava visibilità e comunicazione a cose che accadevano al suo interno, ma che erano appunto spesso determinate proprio da una partecipazione dal basso. E questo ha generato nei 16 mesi, se non sbaglio, 14, diciamo, di apertura al pubblico. 14 mesi di apertura al pubblico, una quantità enorme di eventi, 2300 se non sbaglio, quindi il museo era molto vivo, con una proposta che andava molto anche nella direzione di attività dialogiche, assembleari, di discussione, di presentazione di progetti e anche di esposizione appunto autogestita. C'era stato anche un modo di, diciamo, rendere presente la collezione sotto forma, vi faccio vedere quella cosa, questa era Maxi che aveva appunto il senormato, questa è stata uno degli eventi del macro asilo, perché però una cosa interessante è come il museo, anche da un punto di vista diciamo dell'auto rappresentazione, quindi della scelta proprio anche del nome e della scelta anche di piattaforme di informazione e comunicazione, per esempio il sito, in queste due direzioni che si sono avvicendate abbia poi cambiato veste in maniera molto netta. Quindi qua siamo in macro asilo, il progetto di Giorgio, vedete subito appunto questa dimensione di partecipazione molto intensa, perché il museo in quel periodo diciamo si avvicina a una comunità molto, molto vasta e anche abbastanza inedita per una istituzione culturale, perché tocca appunto varie situazioni cittadine che fino a quel momento non si erano riconosciute nelle istituzioni pubbliche e che invece prendono a frequentare il museo in maniera molto numerosa. E qua sempre vediamo un po' di foto dell'attività fatta in quei mesi. Ecco, le ho scelte proprio cercando di poche immagini di sintetizzare, no, questa componente partecipativa, aperta, anche tutto sommato aperta a linguaggi che magari non identifichiamo immediatamente come l'avanguardia dell'arte contemporanea, ma però ecco, diciamo più dando spazio a dei Simone Caruso, non l'ho vista. Sì, lo stesso. Sulla destra. Ah, sì, è vero. Con il sandalo proteso. Ah no, Giancarlino lui, io pensavo Giancarlino dell'ex Goa. Giancarlino la Russia. Ok, sì, sì. È vero. Ecco, questo parlavo prima della collezione. La collezione viene dato spazio alla collezione, questa forma di quadreria allestita nello spazio più grande, che è quello spazio anche assembleare. Ecco, macro asilo, quindi è un progetto che sicuramente fa molto discutere, che a mio parere appunto pone delle domande importanti, rilevanti, no? Perché per esempio appunto è chi decide. Questa è una domanda che sicuramente il macro asilo pone con molta forza, e la risposta che si dà appunto è quella di un'apertura alla proposta, quindi di una scelta assolutamente non, come posso dire, autoritaria, ma nemmeno autoriale. E questa è una delle cose che forse è stata maggiormente criticata rispetto a questa gestione. Ha una vitalità, che dicevo, straordinaria, ha dei risultati di partecipazione altrettanto straordinari. Questa esperienza viene conclusa, anche interrotta in qualche modo, nel 2019 e nel 2020 si passa a un'esperienza diametralmente opposta, perché se il macro asilo era, come ho detto, una piattaforma aperta che anche in qualche modo si poneva in aperto antagonismo con il sistema dell'arte, ricordo appunto che Giorgio parlava del macro come una nave pirata in qualche modo, e invece il museo per l'immaginazione preventiva di Luca Lovinto è un progetto fortemente autoriale. Quindi è un progetto dove tutto rientra all'interno di una griglia editoriale, e dico editoriale non a caso, perché la metafora utilizzata da Luca Lovinto era proprio quella del museo rivista, quindi un museo che si articola in rubriche, in come dire, anche approfondimenti, però il tutto all'interno appunto di una griglia dove ogni cosa ha il suo posto, e in questo avere ogni cosa al suo posto è anche, diciamo, la possibilità di accessibilità ad un progetto che invece è un progetto molto sperimentale, nei contenuti spesso anche molto di nicchia, e che però proprio in questa chiarezza di suddivisione degli ambiti vuole offrire una bussola al visitatore per orientarsi. Quindi le sale vengono nominate con dei titoli che sono anche appunto un'indicazione sul tipo di contenuto che ci si troverà di volta in volta. Questa per esempio è la sala principale, che viene chiamata solo multi e che presenta appunto mostre personali, in gran parte poi anche tre collettive nel corso dei 5 anni di direzione di Lovinto. Questa è una mostra di Nathalie Dupasquier, con cui il museo inaugura la sua programmazione, diciamo, standard. Apre in realtà con una grande mostra collettiva che prende tutti i suoi spazi, si intitola Editoriale, non a caso. E poi nelle sale della parte vecchia invece dà spazio a tutta una serie di contenuti. Ora vi leggo, per esempio, il titolo delle sale erano il design, quindi uno spazio dedicato all'attività di studi di grafica internazionali, musica da camera, che era una sala insonorizzata che presenta appunto musica e sound art, studio bibliografico, che invece è focalizzato sul mondo editoriale, e retrofuturo, dove la collezione, il tema della collezione è toccato attraverso un dispositivo secondo me molto interessante, perché vengono commissionate a una fotografa, Giovanna Silva, delle foto dei famosi depositi, quelli piombati, chiusi, e lei fa appunto queste foto che vedete riprodotte come gigantografie, come wallpaper bianco e nero sulle pareti di questo spazio, e quindi mostrano opere dentro le casse imballate, opere, per esempio fotografie delle opere contenute nelle casse, e questo contesto fa da sfondo invece a opere di artisti giovani italiani. La collezione è focalizzata solo sulla scena appunto più giovane e nazionale, che di volta in volta si vengono installate aggiungendosi le une alle altre, quindi è un progetto in progress che si compie proprio alla fine dei 5 anni di direzione di Lovinto, e che nell'idea del direttore deve poi diventare la parte più contemporanea della collezione permanente del museo. Idea che non si realizza, perché la sovrintendenza, quando appunto viene proposta l'acquisizione di queste opere, peraltro a titolo gratuito, perché con gli artisti era stato fatto un accordo per cui a fronte del pagamento, insomma, di un fee iniziale, alla fine dei 5 anni di direzione di Lovinto l'opera poteva entrare in collezione come donazione o come accomodato a lungo termine. La sovrintendenza decide di non accettare questa donazione e quindi rimanda al mittente, agli artisti, tutte queste opere, ovviamente non la maniera migliore, diciamo, di relazionarsi con gli artisti e con la scena contemporanea, purtroppo. Queste sono appunto altre stanze. Questa è una mostra di quelle che avveniva nella sala grande. Diciamo che negli anni, nei primi 3 anni di attività, l'attività, diciamo, se l'attività di Giorgio De Finis è un'attività che guardava molto proprio la scena locale, quindi ha rapporti con anche le varie associazioni, ma anche poi con tutta una serie di realtà artistiche sul territorio romano e limitrofo, invece i primi 3 anni, soprattutto di attività di Lovinto, guardano prevalentemente alla scena internazionale, con cui riesce molto bene, diciamo, a posizionarsi in breve tempo, perché credo che Magro in quegli anni sia stato uno dei pochi musei italiani che veramente ha esportato le sue mostre, cosa che normalmente da noi riesce sempre molto difficile. E negli ultimi 2 anni di direzione, in mezzo in questi anni ovviamente c'è stato il Covid, quindi i tempi sono stati diciamo rallentati e dilatati, invece ha guardato molto di più anche alla scena romana. Questa per esempio è una mostra di Elisabetta Benassi, che è un'artista romana, c'è stata anche una bella retrospettiva su Emilio Primi e comunque tutta una serie anche di mostre nelle altre sezioni che guardavano in realtà romane. Però diciamo prevalentemente quello di Rovinto è stato un progetto che ha voluto avere un respiro internazionale e che soprattutto, come il progetto di Giorgio in realtà vedeva nelle mostre quasi, come posso dire, una casualità, cioè qualcosa che accadeva all'interno di un contesto che in realtà era molto più volto appunto all'attività dialogica assembleare, a quello che accadeva quotidianamente. Ecco, invece con il progetto di Lopinto è stato un progetto che ha visto nella mostra diciamo il suo linguaggio principale, quindi anche poi con un programma di public program e anche un programma di educazione, ma in realtà diciamo era l'aspetto espositivo tutto molto controllato anche dal direttore, molto anche progettato e firmato, quindi con una presa di responsabilità in prima persona, però ecco, diciamo, quello era il focus. Arriviamo a me. Io ho partecipato a questo bando pensando, guardando il museo nella sua storia, una storia che conosco dagli inizi, non soltanto perché appunto mi era capitato nel 2002 di essere appunto chiamata a inaugurare uno degli spazi allora del museo, ma non Antatoio, ma il Future, ma proprio perché, come addetta ai lavori, ma anche come romana, ho frequentato moltissimo il museo in tutti questi anni, compatibilmente col fatto che per qualche anno appunto sono stata, vivevo altrove, e dirigevo un museo in Toscana. Quindi ho guardato il museo, ho pensato che in realtà era uno spazio diciamo complicato soprattutto per la governance, perché in questi anni di esistenza, diciamo dal 2002 ad oggi, quindi più di 20 anni, il museo è stato diretto sempre da persone che in qualche modo hanno avuto un'idea chiara di quello che il museo poteva essere, e sono state proposte molto diverse, però tutte proposte secondo me fondate, ovviamente alcune mi trovano più vicina, altre meno, però tutte fondate. Il problema molto forte secondo me è stato un problema proprio di mission del museo, cioè di capire che cosa serve quello spazio, che cosa fa per la città, si vuole mettere in relazione con la città, come si mette in relazione anche ad altri spazi dell'arte, per esempio il Maxi, per esempio la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea oggi. E in realtà da parte del governo cittadino la chiarezza sugli usi di questo spazio non c'è mai stata, è stato un progetto sempre un po' confuso, sempre purtroppo sottofinanziato in maniera importante, tranne che agli inizi, perché quando nasce con Beltroni e con Ecker il museo in realtà ha delle energie economiche importanti, che però presto perde, come perde autonomia, perché in questi passaggi diciamo tra sovrintendenza ma anche azienda speciale per l'Expo, il museo perde autonomia. A mio parere diciamo la maniera unica per garantirgliela sarebbe quello di fare una fondazione e comunque sia di affidarlo a una direzione generale, perché io non credo nella direzione artistica, penso che per fare anche un programma culturale artistico di un'istituzione oggi sia necessario avere il potere di un direttore generale, cioè di qualcuno che guarda all'istituzione come un organismo fatto di tante parti, non soltanto il suo programma, ma anche del modo in cui vengono inquadrate le persone che lavorano per quel posto, ma anche del modo in cui viene trattato l'edificio, trattati gli spazi, della possibilità che c'è di intervenire proprio su quell'edificio e quegli spazi, cosa che a un direttore artistico diciamo in linea di massima non viene garantita, a meno che non abbia diciamo l'appoggio incondizionato di chi l'ha scelto, cosa che per esempio a me non è capitata. E quindi cosa ho pensato di fare quando ho partecipato a questo bando? C'era la possibilità di continuare su questa linea della sperimentazione museologica, che per me era interessante indubbiamente, perché nell'ambito della museologia radicale come la chiama Claire Bishop, e c'hanno sicuramente ancora spazi da esplorare. Però, diciamo, ha prevalso per me il desiderio e forse l'ambizione di provare a finalmente mettere a terra Macro e rendere uno spazio che vada oltre le sue direzioni, cioè uno spazio che non sia più caratterizzato dal progetto di un direttore, di una direttrice, ma che invece sia un'istituzione riconosciuta dalla città di per sé stessa, per la sua funzione. Quindi ho provato a lavorare in questi termini e da questo punto di vista quindi ho guardato con molta attenzione alle due esperienze che mi avevano preceduto, anche per questo me ne ho parlato abbastanza a lungo, perché ognuna delle due metteva in luce secondo me degli elementi importanti per la vita futura di Macro. Ho poi guardato anche a Macro come struttura, a Macro come spazio e architettura, perché il museo da questo punto di vista, me ne ho parlato brevemente prima, è interessante, ha una parte che è una parte storica legata proprio anche a, se vogliamo, anche una storia economica e imprenditoriale della città, una città che sicuramente è molto più nota per essere un luogo appunto della politica e molto meno della produzione. Invece questo spazio di produzione nel quale la città è comunque una storia interessante. Interessante anche il carattere, questi spazi così suddivisi che esistono intorno a uno spazio pubblico, a un cortile, ed è interessante la parte nuova, un'architettura tra l'altro affidata a un'architetta che invece scardina completamente i caratteri dell'altra parte del museo, quindi aprendo lo spazio, aprendo i volumi, creando appunto questi queste sale di dimensione così monumentale come la sala espositiva, come l'atrio, inserendoci poi il volume dell'auditorium. Insomma, ho pensato che queste due cose fossero, cioè le direzioni, le domande poste dalle direzioni precedenti alla mia e lo spazio fossero delle indicazioni molto chiare su quello che si poteva fare. E cosa si può fare? Secondo me si può fare di Macro un museo che sicuramente parli anche a un sistema dell'arte internazionale, perché Roma è la capitale ed è un luogo dove sicuramente non basta Maxi per guardare anche con uno sguardo ampio e globale a quello che succede nell'arte contemporanea oggi, e però che anche non dimentichi, anzi guardi con interesse e attivamente a un contesto cittadino anche di creatività in cui si inserisce. E questa possibilità di tenere insieme le cose, secondo me, è data proprio dal carattere dello spazio, quindi dal fatto che la parte nuova del museo abbastanza naturalmente sia uno spazio che può essere dedicato appunto a mostre anche di taglio internazionale, sia dello spazio appunto della sala grande. Devo ancora rinominare gli spazi che al momento appunto oscillano tra nomi a caso e le vecchie denominazioni, e poi lo spazio dove era ambientata la collezione nell'epoca Lopinto, all'epoca si chiamava spazio retrofuturo, che è una sorta di spazio di raccordo tra parte nuova e parte vecchia, comunque uno spazio abbastanza generoso perché basso nelle altezze e che consente appunto anche quello di realizzare mostre abbastanza ampie. E l'auditorium è secondo me il luogo ideale per gli approfondimenti, quindi per tutta la parte appunto dialogica del museo. La sua terrazza, la terrazza che ha sopra, è uno spazio ideale anche per performance, piccoli live musicali, mentre lo spazio del foyer come spazio pubblico deve essere uno spazio di benvenuto, anche di benvenuto e di presentazione a chi entra nel museo. Quindi io lo immagino come un luogo dove si possa stare, quindi innanzitutto con delle sedute, un luogo dove si abbia un'idea chiara di come si articola il museo. La sua architettura è complessa, quindi non è banale orientarsi, dove si sappia che cosa c'è nel museo, quindi che ci sia anche una modalità di presentazione dei progetti che sia attraente, perché nello spazio del foyer si entra gratuitamente e tra l'altro dal foyer si accede al bookshop, che è uno dei, secondo me, fiori all'occhiello del museo, perché è un bookshop gestito internamente da azienda speciale e che non so chi di voi lo conosce, ma insomma offre una scelta molto ampia di testi, non soltanto d'arte ma di cultura contemporanea, e quindi veramente un luogo che può essere frequentato di per sé. C'è un bar che è stato recuperato dal museo come funzione, dopo che per tanto tempo non c'era più niente di questo genere. C'è una sala studi, secondo me erroneamente collocata negli spazi del bar, per cui il bar di fatto è un disturbo per chi studia e allo stesso tempo è disturbato dagli studenti, perché non ha spazi da offrire a chi vuole magari bere qualcosa. E, però insomma è uno spazio di libero accesso, quindi il fatto che in questo spazio il museo si racconti, si rappresenti, incuriosisca le persone mi sembra fondamentale, come è fondamentale che appunto le orienti e anche offra degli spazi di sosta. E c'è anche un tema, che è il tema della temporalità. Io immagino un museo che non possa sicuramente esaurire la sua capacità di attrazione con il tempo delle mostre. Delle grandi mostre come quelle che per esempio usano uno spazio come quello che state vedendo, sono mostre che necessariamente devono stare su per 4 mesi anche più, perché hanno dei costi importanti, perché sono uno sforzo organizzativo importante. Ma 4 mesi non è un tempo ragionevole per far tornare le persone. Il museo secondo me deve parlare alla città con un ritmo molto più rapido. Quindi questo ritmo e questo parlare alla città, secondo me, può essere invece garantito dall'altra parte del museo, dalla parte vecchia, a partire proprio dal cortile d'accesso. Anche il cortile d'accesso lo immagino come un luogo che venga recuperato come spazio pubblico, quindi uno spazio aperto magari ecco, ai bambini, agli animali, alle famiglie, che offre anche attraverso degli interventi di verde una sua accoglienza e vivibilità, ma soprattutto uno spazio su cui si affacciano tutta una serie di funzioni proprio al piano terra, che secondo me il museo deve recuperare. Quindi partendo dalla seconda, a questo punto, sala conferenze, che rimaneva un po' uno spazio doppione e che invece stiamo trasformando in un cinema con un'ottima qualità di visione e di ascolto, non grande, a 94 posti, e che avrà 2 curatori responsabili della programmazione. Quindi programmazione che sarà essenzialmente una programmazione di prima visione scelta. Quindi diciamo il taglio è un po', se vogliamo, cinema Truisi, è un po' il cinema di Fondazione Prada, oppure, per venire a un'esperienza che conosco da vicino, il cinema del Centro Vecci, perché non sono inventata niente. Il cinema del Centro Vecci l'ha aperto Fabio Carlucci, che è stato un direttore che mi ha preceduto, ed è stata un'idea molto, molto buona quella di aprire un cinema dentro un museo, perché il pubblico del cinema non è necessariamente il pubblico dell'arte contemporanea, ma è un pubblico potenzialmente che si può portare potenzialmente all'arte contemporanea. Allo stesso tempo i linguaggi del cinema e dell'arte sono 2 linguaggi che spesso dialogano anche con delle invasioni di campo, e quindi appunto apriremo il cinema a dicembre insieme alla riapertura di tutto il museo, e avrà una programmazione non immediatamente quotidiana, nei primi mesi sarà solo venerdì, sabato e la domenica, ma poi che vorrebbe diventare invece un'abitudine giornaliera. E giornaliera potrebbe essere anche la frequentazione della biblioteca che sto cercando di riaprire, che ha un patrimonio librario importante, focalizzato sull'arte a Roma, ma non soltanto, negli ultimi decenni, patrimonio che è di sovrintendenza e che necessita ovviamente di risorse specializzate per poterlo rendere di nuovo disponibile. Banalmente servono bibliotecari che sovrintendenza non hanno, e serve di riaprire gli spazi. Vorrei riaprirli, vorrei rendere nuovamente accessibile il patrimonio dei libri, e vorrei spostare all'interno della biblioteca la sala studi, che al momento è nel bar, per rendere di nuovo il bar un luogo della convivialità, dell'incontro. E dall'altra parte del cortile un altro spazio, che in questo momento è uno spazio occupato da dal laboratorio di falegnameria, occupato in maniera non opportuna, perché tra l'altro non ci sono, diciamo, norme di sicurezza necessarie per uno spazio di quel tipo, per quella funzione. Vorrei recuperarlo come spazio di archivi e di centri di documentazione sulla storia del museo, partendo proprio dalla fabbrica Peroni e poi raccontando tutta la trasformazione che questa istituzione ha avuto, le mostre e le attività che l'hanno animata in questi lunghi anni, mettendo insieme appunto sia materiali sull'architettura e gli spazi che materiali appunto sulla programmazione. In questo momento reperire questi materiali per chi fa una tesi di laurea o anche per chi è banalmente interessato a conoscere di più, oggi è molto difficile. È difficile anche per noi, che per sapere per esempio la portata di carico di una delle rampe d'accesso al museo abbiamo dovuto praticamente ricalcolarla, perché non si trovavano questi documenti, che pure dovevano essere, insomma, documenti accessibili. Quindi dico che gli indietri nascondono le tracce. Eh sì, però c'è anche chi non le raccoglie, è un altro discorso. Quindi, per cui insomma, ecco, queste sono le funzioni che immagino intorno al cortile. Negli spazi espositivi della parte, diciamo, vecchia del museo, immagino una serie di programmi che siano più in dialogo con la città, quindi una parte di collezione dove, a partire da opere scelte della collezione di sovrintendenza, che come ho detto è novecentesca, quindi riguarda relativamente l'attività del museo, la riguarda come, come radici, perché nel museo vorrei portare spesso questi sconfinamenti temporali che vanno anche a indagare storie del Novecento, però fondamentalmente rimane un focus sul XXI secolo. Quindi anche nella parte collezione vorrei partire da alcune opere della collezione di sovrintendenza, per poi, attraverso dei prestiti a lungo termine e si spera delle acquisizioni, andare invece a lavorare più sulla contemporaneità, quindi su un dialogo che contestualizzi, attualizzi e approfondisca i temi delle opere storiche. E la parte collezione la immagino con una temporalità lunga, quindi con allestimenti che siano su almeno per un anno, questo per permettere proprio anche un lavoro con le scuole, con gli istituti di formazione, che sappiamo hanno bisogno di tempistiche più lunghe, spesso i tempi delle mostre non sono approcciabili per chi deve fare programmazione, per esempio per le uscite scolastiche. E poi invece tengo la parte, la musica da camera, quindi questa stanza insonorizzata dedicata alla musica e al suono, la vorrei aprire anche alla voce, perché penso che per esempio anche il successo dei podcast lo dimostra, no? Cioè la voce umana ha una grande potenzialità, e quindi anche ascoltare la voce dei poeti, per esempio, ascoltare delle testimonianze del passato. Ci sono a Roma degli archivi bellissimi e molto grandi che raccolgono le voci per esempio di artisti del passato in dialogo con critici, quindi un luogo destinato appunto alla musica, al suono, ma anche alla voce. E poi una project room immaginata per raccontare storie che vadano oltre l'arte, ma che invece coinvolgono anche altre discipline vicine, amiche, sorelle, come la moda, la letteratura, il cinema. Quindi con progetti che raccontano Roma da questi punti di vista e che sconfinano. Lo sconfinamento vorrei che fosse una delle caratteristiche di questo spazio, che io immagino, cioè un macro, che immagino un macro radicale ma accogliente, è un macro contemporaneo ma con uno sguardo che sa anche riconnettersi al passato e che sa anche immaginare il futuro, perlomeno che vuole appunto discutere possibili futuri. Quindi questa è più o meno la struttura. È una struttura che inauguriamo, appunto, vi dicevo, l'11 dicembre con una prima stagione che sarà un po' un'eccezione, perché la prima stagione sarà interamente dedicata a Roma. Quindi, tra l'altro, l'affissione, la comunicazione con cui questa nuova stagione sarà annunciata parte dal verso di un poeta che non era romano, era friulano, ma che a Roma è stato molto a lungo, non è Pasolini, che si chiama, no, Alberto Dubito. È un poeta molto giovane, è morto a 21 anni qualche anno fa, e ha lavorato molto tra la parola scritta e la parola che va insieme alla musica, quindi e in una delle sue poesie c'è un verso molto semplice e molto bello che era: cara città, aperta parentesi, abbracciami. E abbiamo pensato con il gruppo di lavoro del museo che fosse forse la maniera migliore per Magro di tornare e di annunciare questo ritorno alla città, quindi chiedendo di essere abbracciato, perché poi quello credo che di cui insomma il museo ha bisogno, abbracciato da un pubblico vasto, da tante comunità. La nostra ambizione è quella di rivolgersi a tutti coloro che abbiano un interesse, una curiosità per la cultura contemporanea, cercando di dare a ciascuno insomma qualcosa che sia significativo. L'ambizione è anche quella invece di rivolgersi a un pubblico, quindi a tutti quelli che non hanno nessuna intenzione, almeno consapevole, di venire in un posto come Magro. Ci piacerebbe capire come si può cambiare questo stato di cose, come si può interessare questo tuo pubblico, che spesso è composto anche da persone molto giovani, quindi è un pubblico che per noi è doppiamente interessante. E quindi cosa proponiamo di abbracciare in questa prima stagione? Proponiamo di abbracciare un'idea di Roma, una visione di Roma, che parte dalla mostra principale, che si chiama Una Roma, proprio a segnalare come quella che proponiamo è una delle visioni possibili, ma allo stesso tempo è una visione basata sull'idea di comunanza, di collaborazione, che mi sembra sia il carattere principale della scena artistica romana di questi ultimi anni, a partire dalla pandemia, perché io credo che Roma si stia lentamente e anche in maniera soft, ma affermando come un luogo nuovamente interessante per chi crea, proprio grazie a questo movimento dal basso che è partito negli anni intorno alla pandemia, con l'apertura, cosa di Roma piuttosto inedita, di spazi autogestiti per l'arte contemporanea, ad esempio, quindi spazi gestiti dagli artisti o dai curatori, che vedevano proprio in questo desiderio di superare il paradigma della competizione, che è quello per esempio che apparteneva fortemente alla scena artistica romana in cui mi sono formata. Cioè, io mi ricordo i miei inizi da curatrice e critica, in cui ogni volta che proponevo una mostra o anche un articolo su una rivista a degli artisti romani, la preoccupazione principale era quella di non avere insieme a sé persone che si consideravano antagoniste, non all'altezza, quindi il problema era chi c'è e perché ci stanno. Adesso mi sembra che questa cosa invece sia stata fortunatamente sostituita da un desiderio di collaborazione che vede appunto in questi spazi autogestiti l'apertura a residenze, a contaminazioni, a mostre da parte di altri, non solo artisti ma anche diciamo creativi che operano linguaggi anche molto diversi. E questo credo che abbia dato alla città una vivacità nuova che comincia a essere percepita anche da fuori, tanto che molti artisti romani che erano andati via stanno tornando da Berlino, da Londra, da tanti altri posti, ma anche tanti artisti internazionali stanno decidendo di venire a Roma. E questo credo che sia forse uno degli aspetti più interessanti, per cui con una Roma vorremmo raccontare, e uso il plurale non per l'idea appunto Maiestatis, ma perché la mostra la cura insieme a Luca Lopinto, quindi al curatore ambientale precedente, proprio per rompere questa specie di incantesimo abbastanza orrendo del Magro, per cui tutti i progetti a un certo punto finiscono e vengono azzerati, si riparte da capo. Magro addirittura il personale non esiste, non c'è come elemento stabile. Magro ha soltanto persone a partita IVA, dal direttore fino a tutti quelli che lavorano al museo. Quindi sono contratti che finiscono con la direzione, potenzialmente il direttore entra in uno spazio vuoto dove non c'è nemmeno la memoria di quello che è successo. Questo io lo trovo gravissimo, gravissimo da un punto di vista, dicevo prima, anche delle condizioni di lavoro, perché sono condizioni di precarietà che io trovo abbastanza inaccettabili per le persone giovani che lavorano con noi, e anche proprio come perdita di patrimonio, perché le competenze che si sviluppano all'interno del museo, la conoscenza del museo, delle pratiche che si svolgono al suo interno, del contesto in cui il museo si inserisce, sono valori preziosi che le persone che lavorano al museo sono in grado di mantenere e garantire nel tempo all'istituzione. Quindi mi piacerebbe poter lavorare anche su questo, appunto, sul rendere un po' più permanente il gruppo di lavoro. E l'idea è appunto di provare a lasciare alla città un museo che vada oltre appunto le sue direzioni. È un segno anche che voglio dare da subito attraverso appunto la richiesta di collaborazione fatta a Luca Lopinto, che è un curatore che stimo, con cui ho già collaborato quando ero al Centro Pecci, e che quindi insieme a me cura questa mostra, che è una mostra che vede 41 artisti di varie generazioni che lavorano con vari linguaggi, esporre nella sala questa grande, e però anche avere una parte live come parte integrante della mostra, quindi non come public program o comunque sia programma collaterale, ma come elemento importante e forte della mostra. Quindi nell'altro spazio avremo una sorta di set che viene animato ogni settimana da interventi musicali, performativi, filmici, di discussione, che lasceranno delle tracce nello spazio. E poi una parte off-site, che è la parte dedicata agli spazi indipendenti di cui parlavo. Ne abbiamo scelti 12, a cui abbiamo affidato un budget per poter fare dei progetti nello spazio, perché ci sembrava un'attività un po', cioè un atteggiamento un po' estrattivo, quello di chiamare chi in questi anni aveva fatto la sua storia, si era affermato con indipendenza e resilienza, e quindi ci è sembrato insomma migliore dare la possibilità di realizzare qualcosa nel proprio spazio e usare la struttura del museo, la comunicazione del museo, per portare persone in quei luoghi, in quegli spazi. E questo è il progetto, diciamo, principale come dimensioni. E le altre cose che succederanno a Magro in questi primi 4 mesi saranno l'apertura del cinema, e il cinema anche sarà tutto dedicato a Roma, quindi con 2 appuntamenti principali, il venerdì e la domenica, il primo dedicato ai giovani registi e registe romani che verranno a presentare il loro film, ultimo e forse in molti casi primo, ma anche la loro visione, e invece la domenica autori e autrici più affermati, da Bellocchio in avanti, da Abel Ferrara, e che verranno invece a presentare il loro film del cuore su Roma, a spiegare perché quel film racconta secondo loro in una maniera interessante la nostra città. E poi ci sarà un progetto dedicato a Dissonanze, quindi un festival musicale che nei primi 10 anni del 2000 ha portato Roma in dialogo con le altre capitali europee, mettendo insieme musica elettronica, cultura digitale e arte visive, e lavorando molto sul tessuto anche cittadino e le architetture cittadine, perché era un festival che aveva luogo ogni volta in spazi diversi. Le ultime edizioni erano all'interno del Palazzo dei Congressi, ma non soltanto, quindi anche relazionandosi proprio a Roma, alla sua storia architettonica. E poi una parte invece è una mostra, diciamo, di urbanistica che parla del social housing e del recupero degli spazi a Roma. Sarà l'elaborazione del progetto del padiglione austriaco alla Biennale Architettura di Venezia, penso alcuni di voi l'avranno probabilmente visto. Porteremo la parte su Roma, ampliandola soprattutto nel dialogo con realtà romane e progetti su Roma che stanno prendendo piede, insomma, che si stanno sviluppando in questo periodo. E alla fine poi invece un progetto che sarà, diciamo, l'apertura della nostra attenzione anche al video, inteso come spazio di sperimentazione artistica, non cinematografica, che vedrà una nuova produzione di Jonatas de Andrade, che è un autore brasiliano, un artista brasiliano, che in questo caso sta realizzando un nuovo film su una comunità molto, molto particolare, di ex suore brasiliane che hanno lasciato il Brasile negli anni 70 perché minacciate dalla dittatura militare e che hanno lasciato anche però la loro congregazione perché non più d'accordo con le regole di quella congregazione. Loro erano molto dentro la teologia della liberazione, quindi erano marxiste e femministe, e vengono a Roma e continuano la loro attività come gruppo indipendente che decide di non darsi un nome, quindi si rivolgono, parlano di se stesse come dei Sisters with No Name, e quindi appunto questo artista sta lavorando con loro in un racconto non documentale della loro esperienza. Queste persone oggi hanno 80-90 anni. E questo sarà il progetto di apertura, quindi l'idea di guardare Roma attraverso linguaggi diversi, attraverso comunità diverse che afferiscono a questi linguaggi, con temporalità diverse, quindi con mostre di lunga durata e invece cose che succedono ogni settimana e anche ogni giorno, e con l'idea appunto non solo di farsi abbracciare dalla città, ma anche di abbracciarla nella sua varietà, nelle sue differenze. Quindi questo è il progetto che poi avrà invece, al di là di questo, diciamo, questa prima stagione, poi delle linee che non necessariamente saranno così aderenti soltanto alla realtà romana, ma anzi si apriranno poi anche a contesti molto più ampi. Però insomma credo che già in questo primo momento ci siano molti elementi che potranno dare l'idea di quello che sarà appunto il marco dei prossimi 3 anni e io spero anche poi del futuro. Grazie. A questo punto vorrei però molto aprirmi a... se abbiamo tempo, no? Mi dicevi, vero? Mezz'ora? No, quanto dopo? Ah, così fa? No, volevo lasciare... No, io volevo per quello. Mezz'ora era tutto per loro. Ah, sì, sì, certo. Sì. No, pensavo volessi iniziare. Prego, a voi le domande. Io ve ne faccio una per non perdere, ve ne faccio io una a voi. Cosa volete voi da un'istituzione come Mantua? Ma questo però, diciamo, è troppo, gliela vogliamo regalare questa. E dai, sì, abbracciatemi. A me piacciono le serate, diciamo, con gli incrogli, di andare a parlare al posto attorno, non c'è, no. Cioè, non so che quali sono gli ambiti, quartiere, rumori. No, le giacche di quartiere non fanno altro che mandarmi messaggi minatori, però. E devo dire che il problema non è soltanto il quartiere, il problema a questo punto è anche l'azienda speciale che ci dà dei limiti micidiali in termini di pratiche per il pubblico spettacolo, Per cui in questo momento qualsiasi cosa che abbia un minimo di vitalità che vogliamo fare dentro un museo ci costa in termini semplicemente di fee pagati all'ingegnere che fa queste pratiche 1.300 euro, così anche se voglio appunto Lorenzo Romito che presenta il suo film nel quadro del progetto che Giorgio farà per Pasolini. E quindi questo ovviamente crea dei problemi notevoli. Detto questo, però sono d'accordo che quello è un elemento importante che non può andare perso. Fatene una che ci una che per una facciamo senza soluzione di continuità. No, dunque scusate, io credo che per voi questa comunicazione di Cristiana Pereira, che vi ringrazio moltissimo, è utile per un fatto che praticamente ci coinvolge direttamente dentro la nostra sperimentazione. Cioè mi sembra che dal suo programma emerga una di quelle cose che secondo me è giusto che emerga, cioè un accoppiamento strutturale tra il contenuto e il contenitore, per semplificare in maniera un po' brutale, cioè gli spazi architettonici del museo e poi le loro, chiamiamole così, destinazioni, ancorché fluttuanti, qualcuna un po' più diciamo fissa all'interno di un programma che ovviamente si sta costruendo attorno a questo. E questo mi richiama anche molto l'esperienza che noi abbiamo fatto, ancora non ve l'ho mostrata, ma ve la mostrerò, al Fellini Museum. Cioè noi avevamo, quando io ho cominciato la progettazione, a disposizione due contenitori molto diversi tra loro. Uno era il castello, nel quale praticamente abbiamo fatto un'operazione allestitiva più che altro, e l'altro era questo Palazzo Valloni, dove sfondando addirittura un solaio siamo riusciti a inserire tre architetture nell'architettura, di cui uno cinemino. Un altro era una sala totalmente dedicata al suono e quindi alla voce di Federico Fellini, l'abbiamo chiamata la stanza delle parole, e poi c'era un altro luogo che era la stanza del mago, sempre riferita naturalmente al personaggio, ma questa storia del cinemino ha avuto un successo enorme, perché adesso il museo, praticamente chi va nel museo può fermarsi e entrare nel circuito, diciamo, del film. E il film lì funziona come funzionava in avant-cord, cioè si può entrare in qualsiasi momento, perché il film di quel giorno viene. Una volta, quando ero piccolo io, al cinema noi andavamo anche alla fine del secondo tempo, non aspettavamo che il film cominciasse, diciamo, e divertendo questa formula un po', diciamo, però questo accoppiamento, dicevo, strutturale tra gli spazi e il programma sembra una cosa che a noi ci è utile, mutuale, e quindi volevo sollecitare anche su questo, se avete delle domande. Anche l'attenzione alla città, quindi anche l'attenzione alla città, spazi del museo possono essere, sì, infatti anche noi. Noi lì abbiamo essendo recinti disciplinari. Sì. Poi essendo quello lì, diciamo, riferendoci sempre all'esperienza fatta al Fellini Museum, un museo diffuso che si è anche, aveva l'ambizione, anche ha avuto l'ambizione di coprire gli spazi aperti della città, è evidente che poi ci sono state anche operazioni che sono state fatte nel tra di questi contenitori. Volevo aggiungere una cosa sulla questione di De Filis che mi sta a cuore, ovviamente non solo per motivi, diciamo, di rapporto intellettuale, anche di grande amicizia che in seguito a questo si è maturata, ma soprattutto perché una cosa che secondo me pochi hanno sottolineato, che invece è importante, la raccoglievo anche dalle parole che hai detto tu all'inizio: non si è mai riflettuto abbastanza su questa idea di quantità che il De Filis, diciamo, ha messo in campo, che mette sempre in campo in tutto quello che fa. Questa è una riflessione che andrebbe fatta, perché la quantità di De Filis è importantissima e non è una quantità che va in contrasto con la qualità, perché è una quantità che potremmo declinare secondo la filosofia moderno-contemporanea, più contemporanea che moderna, ma comunque parte anche da Aristotele, che diventa sempre Aristotele, che la quantità è un modo per sconfinare, è un modo per abbattere, diciamo, alcune limitazioni, appunto. Non è il numero chiuso. E quindi da questo punto di vista si trascina dietro una questione sulla quale secondo me sarebbe molto interessante riflettere, soprattutto per chi vuole seminare largo e quindi vuole, diciamo, non solo coinvolgere, perché il coinvolgimento, sì, andiamo, facciamo tutti insieme, che bello, qualcuno può interpretare quasi come un'operazione, diciamo, artistico-didattica, antropologica. Quando noi facciamo la Sapienza, il famoso concorso annuale per l'arte, voi non avete idea di quello che arriva, è meraviglioso quello che arriva. È aperto a tutti, gli studenti, i professori, le personalità, e in quel momento c'è un popolo di artisti, che uno veramente non sospetterebbe mai, che è però questa dimensione è una dimensione veramente incredibile, cioè, come si dice, credo che sia una delle grandi questioni che l'intervento di Giorgio ha posto, però non abbiamo tempo di approfondire, però è un tema che mi sta molto a cuore e che dentro diciamo questo rapporto di come dire, filiazione, anche di continuità, che vuoi stabilire come le precedenti, non è un elemento che non perderei in alcuni momenti, però questa è la mia personale opinione. C'è qualcuno che lei sì. Prego, si presenti. Sì, allora io sono vicino morta e ho visto questo, diciamo, bellissimo convegno su Facebook che tu hai pubblicato, e ringrazio appunto, grazie a Pizzano per aver preso il pubblico. E c'è sempre un problema di comunicazione, perché io sono un artista ma sono soprattutto una sociologa. E quindi ho abbracciato molto l'idea di questo spazio condiviso, di questo museo, che non è un museo contenitore, no? Ma uno spazio dove effettivamente si può interagire non soltanto con il dipinto, con l'arte tout-court, ma anche appunto con spazi audiovisivi o intrattenimenti anche sociali. Cioè, e questo è, diciamo così, l'idea che il museo dovrebbe essere portato avanti dall'interno appunto di una città metropolitana, cosmopolita, appunto Roma. E un'altra idea che mi era appunto venuta era appunto questo, che come artista, come tutti gli artisti, siamo un po', tra virgolette, un po' isolati, cioè non ci conoscono a meno che non ci facciamo conoscere. Mi piacerebbe appunto che ci fosse una specie di non so, una rete dove effettivamente gli artisti possano anche confrontarsi, mettersi in discussione o anche appunto farsi conoscere, in modo che così tra critici, artisti e comunque operatori dell'arte ci fosse appunto un circuito aperto, e che gli spazi appunto anche del mago, asilo potessero diventare una realtà tutti i giorni, dove gli artisti possono presentarsi e possono, diciamo così, organizzare delle proprie esposizioni, in modo da farsi appunto conoscere. Anche... Bene. Grazie. No, diciamo, allora, vorrei che fosse chiaro che lo spazio vostro è dedicato dedicato non tanto al cahier di doleanze, ma adesso a parte questa perorazione, questo è comunque sempre una lezione all'interno di un corso che è dedicato agli studenti, aperta naturalmente al pubblico, però se si innesca questo meccanismo, cominciamo poi ad avvitarci su una questione che forse ci porta un po' fuori. Ragazzi, coraggio. Che madre vorresti? Sì. Sì, certo che poi, senti, così si sente più la voce. Ma è un suggerimento al programma questo? Che cos'è? No, non so, perché diceva anche dei suggerimenti. Che mamma vorrebbe, però. Che cosa mamma vorrebbe? Che magro. La danza contemporanea è intesa proprio come disciplina. Sì, sì, sì. E magari possono essere anche intrattenimenti, magari disagi, magari si fa, magari corsi, bene. Come scusami? Inaugurare Maxi. Sì, però lì era una performance. Sì, c'era una performance. Sì, certo. È vero, è vero. Me lo ricordo perché io al tempo lavoravo come scenografo con Lucia Latour. Era Sasha Latz, sì. Che è un museo vuoto, cioè il Maxi in realtà è inaugurato con l'architettura. In dialogo con la performance di... Credo che fosse show. Una danza post-modern dance, qui da Bausch. Sì. Esatto. Bene. No, questo è molto bello, ma al di là, diciamo, cosa che io apprezzo molto, dei suggerimenti su cosa fare, io voglio sapere da voi che bisogno c'è del macro, cioè voi che cosa vorreste andare a cercare in un posto del genere? Qual è una funzione in un posto come un macro che per voi è necessario? Vi manca un posto, oppure ne frega niente. Ho sentito un'aula studio. Un'aula studio, ce ne sono ben due, è l'unica cosa che c'è. No, ma l'aula studio c'è, funziona moltissimo. Che orari immagini che possa avere di apertura? Questo è un tema, perché gli orari attuali mi sembrano da mezzogiorno alle 7 di sera. Adesso stiamo sicuramente con la riapertura, giovedì siamo aperti fino alle 10 di sera. Ma anche d'estate è più lungo. Sì. Io sono stato, esatto. Sì. Potenzialmente secondo me l'apertura sarà più lunga, però allo stesso tempo anche la mattina, perché per esempio le scuole, mezzogiorno è un orario impraticabile. Bisogna aprire alle 9 per le scuole, alle 10 al massimo, quindi in realtà c'è bisogno di orari. Citavi prima l'esempio del cinema Troisi, che è un spazio piccolo, eccetera, però mi sembra che il successo di quella sperimentazione che hanno fatto i ragazzi del cinema America sia anche in buona parte garantita dal fatto che loro riescono appunto ad aprire quello spazio alla collettività, mettendo come dici tu in mescolanza, no? La presenza di la parte, diciamo, giovane della società e perciò certo. Dinamica quella degli studenti che vanno lì a organizzare liberamente lo studio, anche il bar, e poi appunto qualcuno viene, come dire, anche attratto, no? dalla assolutamente, perché poi penso che costruisco una piccola presidio proprio permanente. Sociale, no? Sì, sì, è vero. Non solo culturale, ma proprio sociale rispetto al luogo. È vero, e poi considerando prima gli dicevo come il municipio, il secondo municipio è un municipio che ha una popolazione vecchia e ricca, e in realtà c'è una popolazione temporanea, molto giovane, perché c'è Sapienza, c'è anche la Luis, c'è Rufa, ci sono dei licei anche come Righi, il Tasso, Giulio Cesare, quindi in realtà c'è una comunità di persone giovani che gravita, almeno in certi orari, in quella zona che è estremamente interessante. Quindi trasformazioni in cultura interna, parlavi del sempre nella, diciamo, nello spazio attivo e greco di detto, o avresti una cosa così giovani quasi che quasi stanno assente? Questo stiamo capendo. Per esempio quest'anno iniziamo, abbiamo fatto una convenzione con gli ED, perché sono venuti e me l'hanno chiesto, quindi anche architettura se vuole c'è anche. E per cui gli studenti del corso di Interior quest'anno lavoreranno proprio a immaginare gli spazi pubblici di Macro. Quindi questo poi non è un canale anche di interesse, cioè comunque poi entra con l'obiettivo magari di immaginare, proporre qualcosa, sicuramente poi si studia, si apre e lì nasce un'interazione. Ma questa modalità delle call è una cosa che vorrei comunque tenere, mantenere per varie cose, perché per esempio iniziamo, abbiamo proprio l'altro giorno definito un accordo per ora con la Lituania, però vorrei farlo con tanti paesi, di uno scambio di residenze per curatori, per cui noi abbiamo due foresterie, far venire dei curatori lituani a Roma per una settimana e metterli in contatto attraverso la nostra mediazione con la scena romana, artistica, creativa, anche con gli spazi curatoriali, e poi anche però offrire la stessa possibilità a due curatori romani di andare in Lituania a fare lo stesso. Questo lo faremo ovviamente attraverso delle open call da una parte e dall'altra, oppure anche da degli spazi espositivi nella parte, diciamo, vecchia del museo. Vorrei anche immaginarlo come uno spazio la cui programmazione derivi da una call for projects per mostre di artisti che non hanno mai avuto mostre museali, proposte da curatori. Quindi comunque sia, mi interessa anche appunto un canale di apertura, ma in generale mi interessa appunto l'apertura anche ad altre realtà. Cioè, in questo momento almeno della mia vita non sono così interessata a difendere la mia autorialità, ad affermarla in maniera così precisa, ma piuttosto invece ad affermare un'altra cosa, che è proprio la necessità di dialogo, di confronto. Quindi la call mi piace molto. Posso dire una cosa sull'autorialità? Perché no, perché questo cerca di non essere, come dire, fastidioso, anche perché i ragazzi vedranno il film sul Magra Asilo, torneremo a parlare di quell'esperienza più là. Però io penso che sia fatto un museo non autoriale di più, io infatti lo chiamavo progetto artistico, quindi diciamo, però l'autorialità era sulle regole del gioco, cioè le stanze avevano un nome, ogni stanza aveva le sue regole, termini di tempo e di chi ci poteva entrare. Non era autoriale, diciamo, il contenuto ovviamente noi segnavamo tutto, perché non è che arrivava da solo, noi stavamo, non era un happening, quindi abbiamo gestito tutto, però no, non tutto quello che entrava mi piaceva, se questo intendi dire, per autorialità, cioè se l'autorialità è che entra ciò che mi piace, non era autoriale perché non mi piaceva quasi niente. Se per autorialità si intende che il museo lo smonti e lo rimonti con delle tue regole, per cui diventa un dispositivo. Il dispositivo poteva essere non il migliore dei mondi possibili, ma uno dei mille per me possibili, diciamo. No, quello è stato pensato così per una serie di circostanze anche di natura economica. Cioè, 30.000 euro al mese, per cui togliere gli stipendi delle persone, voleva dire una chiamata alla città e a tutti per costruire uno spazio comune. Non era semplicemente, cioè era che senza quella chiamata non ci sarebbe stato il museo aperto, oppure ci sarebbe stato il direttore che aspetta le gallerie con la mostra che ha in mano. No, quindi, però io reputo i miei musei non talmente autoriali, li firmo, diciamo, come creatore del museo. Quindi dire che non è autoriale, cioè la quarta volta devo precisare che no, per me è la scelta dei contenuti, del progetto, tant'è che ho parlato di musei dei direttori, sì, perché sì, sia il tuo Magro che il Magro di Lobinto sono stati fortemente. Però Lobinto ha fatto entrare fuori gli interessi, diciamo. Sì. Io ho fatto entrare il mondo, diciamo, facendo un passo indietro che però non era mancanza, diciamo, era una scelta politica, cioè non è che proprio non fare del museo casa mia. Dopo che ho deciso come si organizzano le stanze e le cose, cioè, poi io arretro e entrano gli altri che però in quello spazio-tempo sono il museo, poi tornano a casa e avanti un altro, cioè era una dimensione, diciamo, plurale, volutamente, diciamo, politica, però, però dire che, insomma, che uno non è autore su quello a me un po' secca perché, diciamo, io mi considero un inventore di musei, quindi dire che uno non è autore poi no, non è stato ben articolato questo mio discorso, ma io dicevo anche che erano due musei fortemente caratterizzati dalla figura del direttore agli antipodi, esatto, Polari, però tutti e due assolutamente riferiti alla figura di chi li dirigeva. Quindi uno con un controllo estremo, una griglia molto rigida all'interno del quale inserire contenuti che quasi mai uscivano dagli interessi specifici della direzione, l'altro al contrario che aveva formato appunto un modello dove i contenuti, appunto, come hai detto, non erano selezionati sulla base di questo interesse ed erano anzi lasciati aperti. Quello che dico, una user generated content, una piattaforma per user generated content, chi la fonda la piattaforma ha un'idea precisa, ha una priorità precisa, però poi diciamo non c'è dentro una responsabilità editoriale. Se la prendeva ciascuno. Esatto, non c'è una responsabilità editoriale. Dall'altro lato c'è anche una responsabilità editoriale, tant'è che il modello era una rivista dove esiste un direttore responsabile e molto molto chiara. Quindi diciamo che tra l'altro secondo me è interessante usare questa metafora perché è una metafora che apre anche un dibattito piuttosto contemporaneo proprio, no? Su questi temi esportabile, diciamo, ad altri ambiti che sono quelli per esempio del digitale ed è un dibattito importante e interessante proprio che tocca insomma temi anche più potenti come quello dell'informazione, no? Per cui secondo me diciamo che a me interessa moltissimo aprire le porte del museo che restano spesso molto chiuse, molto selettive per far entrare ciò che ciascuno col suo bagaglio, diciamo, di studi, di competenze reputa importante. Quello che rimane fuori, adesso non cito la signora, magari c'è entrata mille volte, però quello che spesso rimane fuori è mille volte di più, 10.000 volte, più 100.000 volte più di quello che entra dentro. Quindi a me interessava diciamo far apparire l'ecosistema dell'arte piuttosto che far entrare il sistema dell'arte, che è una questione spesso mercantile di cui a me interessa poco e niente, nel senso riguarda un settore della vita, come dire, economica e culturale, ma che non riguarda la città. Se uno vuole far avvicinare la città deve uscire da quel mondo chiuso che riguarda gli addetti ai lavori e deve dire questi sono gli artisti, queste sono le questioni, partecipiamone riflettendo. Ecco, secondo me questa apertura è necessaria se uno vuole che la città diciamo sia abbracci il museo, se no diventa un po' la caccia al pubblico nuovo. Come posso catturare un nuovo pubblico se il pubblico... No, come posso capire che cosa serve? Perché secondo me, per esempio, oggi questo discorso rischia di essere fuori sincro rispetto a una possibilità che oggi oggettivamente viene offerta a molti di presentare i propri contenuti anche ad un pubblico potenzialmente vasto, vastissimo, perché per esempio rispetto al momento in cui ho iniziato i social network oggi ti permettono di far vedere il tuo lavoro. Ci sono artisti che esistono solo sui social, cioè che vendono attraverso i social, vivono attraverso quelle le relazioni che riescono a stabilire solo su quelle piattaforme, non transitano mai per esempio per i sistemi del mercato, ma nemmeno quelli del museo. Però cioè, sono sempre singolari anche se stanno sui social quelle quelle piattaforme. Cioè io metto le mie cose e poi un mondo che è la mia bolla mi vede. Il museo invece è uno spazio. Perché sono bolle perché ognuno c'ha, vedono solo gli amici le cose tue, quindi funziona così. No, questo non è così, perché io conosco artisti che sono riusciti a farci un seguito veramente ampio. Però internazionale, quello, io dicevo, mi interessa la ricaduta pubblica, non me ne frega niente se l'artista singolo su vende o non vende, come canta. Si fa vedere, si fa anche la garanzia di essere visto, di andare da altri, secondo me, da altri sistemi, da altre piattaforme. No, ma io questo l'ho capito, però non è neanche quello l'obiettivo di far vedere gli artisti, è di mettere gli artisti in un posto concentrati, essendo delle anomalie, per incontrare la città. Cioè questo per me interessa. E gli artisti che collaborano non sono usciti dalla pandemia, diciamo, perché il MAMA, Spazio Inizio, il Magrasivo, cioè vengono prima dalla pandemia, e chiedere agli artisti di collaborare e di uscire da quella logica di competizione morso tua vita mea, perché il mercato mi chiede quello, perché se lui compra il quadro mio non compra il quadro suo. Cioè è proprio questo senso di dire: usciamo da uno spazio dedicato alle classifiche degli artisti, a mettere in fila il più bravo, cioè, e facciamo uno spazio per la città dove gli artisti generosamente si offrono, gli esperti generosamente offrono il loro punto di vista, ma non per gli artisti, non è uno spazio dell'arte per l'arte, per me è un museo, è uno spazio della città. Io penso che diventi della città nel momento in cui apre la porta, e i musei hanno la porta chiusa perché il sistema purtroppo contro, diciamo, l'arte espansa, cioè contro milioni di artisti, deve desertificare, deve creare pochi e buoni. Questo vale per tutti gli ambiti della cultura, perché allora, diciamo, nella letteratura verrebbe solo il sistema degli autori a proprie spese. No, che, diciamo, un sistema. Noi invitavamo gli artisti sogni, quelli che accettavano di venire gratuitamente e che accettavano di confrontarsi con quelli meno sogni, però l'idea era che ci fosse uno spazio dove città, artisti e le opere che si portavano dietro in maniera veloce, perché era uno spazio giornaliero, quindi molto, molto dinamico, diciamo, potessero interagire, ma anche gli artisti tra di loro. Io ho parlato sempre di foresta, dove c'erano le querce, le felci, i funghetti, cioè artisti di tutti i livelli, insieme, cioè far vedere, far apparire ciò che di solito si fa scomparire. Quella era la mia idea di mostra, cioè il museo era in perenne, era una mostra permanente dove apparivano cose. Ma tante volte però, a mio parere, nel grande rumore di fondo le cose spariscono anche peggio, nel senso che indiscriminato è un modo di non fare vedere niente. Cioè, quello sta ciascuno. Tocca questo tema della quantità, sì, che secondo me, scusate, è decisivo per cercare proprio di tracciare una linea di demarcazione proprio tra le diverse impostazioni. Poi naturalmente è chiaro che si può riflettere su questo, cioè Aristotele diceva che la quantità è una delle 10 categorie diverse, ma ne parlava con grande attenzione perché normalmente viene sempre relegata a qualcosa nel quale tutto si annega e tutto diventa indistinto, oppure ancora peggio, quella dimensione all'interno della quale si perde la qualità. E invece gli autori contemporanei si sono contrapposti a questo concetto dicendo: no, non è vero, perché la quantità è portatrice di una dismisura nella quale rischi di, diciamo, vedere largo, quindi avere davanti a te un magma anche indistinto di cose, ma se sai setacciare avrai anche la fortuna di trovare quella cosa che altrimenti non avresti mai potuto trovare. Cioè questo è anche l'elemento importante per dire che noi, per esempio, noi facciamo delle call for project, delle call for paper e delle call for drawing addirittura, le quali chiediamo alla nostra comunità accademica di intervenire, non solo diciamo dei docenti, delle volte anche PhD, poi anche gli studenti, di intervenire all'interno di questa raccolta è molto difficile perché non si riesce mai a dare un perimetro definito, sia quantitativo che qualitativo, di quello che ti occorre avere. Molto spesso è come buttiamo l'amo e vediamo che abbocca, no? Questo è l'elemento. Quando la regola di ingaggio si fa più stringente, diventa a quel punto veramente difficile il tema, ma molto difficile il tema, come per esempio questo del MAM, è un tema difficile dal punto di vista della soluzione architettonica. Noi abbiamo bisogno di lavorare su questo doppio versante, intanto scoprire che cos'è un luogo di convivenza ibrida, perché tutte queste istituzioni nuove vogliono in qualche modo ambire a trovare una nuova funzione alle cose, no? Questa storia di un museo che diventa la sala di lettura, il cinema, il luogo dove si può fare la danza, dove si può mangiare, dove è il luogo del loisir, però anche il luogo del... Allora il tema è questo spazio in cui l'arte si vuole contaminare con l'abitare. L'abitare, diciamo, il museo è come se fosse una piazza. Queste piazze sono solo il luogo ormai del cibo, ma infatti, del commercio. Infatti va benissimo, per noi si pone un problema estremamente interessante, che è quello di capire come possono confondersi alcune caratteri del tipo architettonico che noi siamo abituati a esplorare, no? Anche se il museo, diciamo, si è evoluto, e quindi diventa interessante capire quali sono le testimonianze che il museo vuole rappresentare in termini di testimonianze di esistenza nei diversi luoghi, diverse figure che abitano il museo. Quindi credo che la sfida, da quello che hai detto, mi sembra che io sono molto incuriosito da questo programma centrato sulle figure, perché secondo me può essere una chiave veramente molto... Non ho capito cosa sarà la mostra sull'urbanistica, però... Anche nel padiglione Austria... Quello della Biennale che viene giù nella parte sul Roma, più diciamo, la parte che ha nel cortile assembleare rivolta maggiormente alla città con maggiore partecipazione. Il presidente oggi ha portato un esempio che ha visto. Prego, vai. Sì. Che c'era il MAM addirittura, sì, giusto? Sì, il MAM è nella parte del confronto tra Roma e Vienna. Sì, esatto. È proprio nella parte di Roma, c'è una sorta di tavola di intenzione. Sì, proprio stamattina mi ha fatto vedere la famiglia. E tu hai fatto, che cos'era questa parte? Era spiegata come museo abitato? Sì. Okay. Era una tavola, sembrava una tavola di invenzione, giusto? Ah, sembrava la tavola di invenzione, è un evento locale, sì. Perché fa parte dei miei studenti, fanno una tavola di invenzione prima di arrivare al progetto, che è una sorta di tavola, come un po' i capricci di Canaletto, mettiamola così per intenderci, nella quale diciamo, c'è una sorta di dichiarazione di intenti, ma anche diciamo, una visione che abbraccia non solo il tema, ma anche le figure, le forme che attorno a quel tema loro intravedono di poter convogliare, no? Per l'abbrivio del processo creativo. Quindi tavola di pensione e cercare il nostro intento. Quella è un disegno, diciamo, un'opera di Leroy, che era studente, e oltre che occupante, studente di Francesco Caretti. Quindi, diciamo, è una delle prime tavole di intenzione, diciamo. Che peraltro noi non volevamo in mostra, ma questo. Ma posso dovere la possibilità di ascoltare anche persone più giovani che mi interessano. Direi. No? Rispetto ad esempio al tema che si stava adesso discutendo, del rapporto con la produzione culturale, voi ad esempio preferite un rapporto, cioè una, preferite avere a che fare con uno sguardo orizzontale, quindi con la possibilità di vedere tutto quello che si fa senza una selezione, oppure preferite in qualche modo che siano indicate e anche possibilmente rese accessibili delle direzioni che magari sono quelle di innovazione o di linguaggi comunque che in qualche modo forse anche hanno una forma di complessità e interesse maggiore? Punto interrogativo. Anche non solo nell'arte, magari non è il linguaggio che mi interessa più. Prego. No, ecco. Non so se ho capito bene la domanda, però mi veniva da suggerire, al di là della domanda, questa, nello specifico, quello che è la dinamica di edifici del massimo l'ultima volta, e cercare di creare il dialogo tra le varie, cercare di creare uno spazio in cui ci sia una connessione nella, senza fare una suddivisione di niente. Quindi non avere per esempio la sala del non so, della pittura, non è questo il caso di niente, però cercare in qualche modo di avere un dialogo maggiore. Degli spazi diciamo in cui si può percepire questa sì, multidisciplinarietà, esatto. Questa transizione. Cioè di abbracciare l'arte tutto quello, insomma, nella totalità in modo caratterizzato. Cosa che cercheremo di fare in realtà. E per esempio rispetto invece alla domanda che facevo, cioè se tu per esempio preferisci che ti venga offerto uno sguardo orizzontale o preferisci per esempio l'expertise? Sì, anche sulla musica, la letteratura, quello che vuoi. Nel senso che magari è stato un luogo che io molto spesso preferirei avere una visione nuova su un nuovo progetto, su una nuova, insomma, una nuova tematica, e secondo me quello in qualche modo stimola di più la è novità, quindi in qualche modo stimola la curiosità in maniera maggiore. E voi siete d'accordo? Non si espongono. Sulla musica, per esempio. Sulla musica dovreste reagire, diciamo. Ad esempio, dire il modo in cui è raccontata l'arte contemporanea, no? Che non so, vedo quella che fa la spesa, cioè spesso o mi devo leggere due pagine nella stessa maniera bellissima, oppure non posso sapere cosa voglio dire. Due righe che mi parli di concetti per ogni cosa sarebbe accessibile. Penso se è questo è un grosso tema. In questa mostra di apertura abbiamo lavorato come dici te, cioè ci sono delle cose che danno un inizio lì. Senza essere una lettura che si sovrappone all'opera, però ti dà qualche chiave, poi te la vedi te. Però lo puoi approfondire, però almeno puoi capire. Sì. Scusami, un'altra domanda invece, dove tu ci dai dei suggerimenti a noi. Non me li volete proprio far sentire? No, non ci vuole un po' di tempo per tirare fuori le cose. È sempre così, però poi arrivano. Dimmi. Come ti trovate? Con degli spazi monoforti con un dato espressivo fatto da noi architetti, cioè noi abbiamo una scatola bianca oppure con un interno, questa è stata ora a questo punto che mi faccio ritorno. Come ti stai trovando con uno spazio che insomma c'è già una sua forza artistica, espressiva, perché gli artisti a volte non sempre si trovano bene con un'architettura. Ma questo scusami, ti rispondo, no, perché adesso, diciamo, questo qui è una cosa falsissima, questo rapporto tra il contenuto e il contenitore è una cosa che appartiene, ma c'erano i musei dell'Ottocento che erano altro che roba rigida, erano più che rigidi, cioè, no, no, scusami, questo è fondamentale, il problema è l'intoccabilità o la toccabilità di queste opere, cioè quanto si rendono, come dire, adattivi e quanto non si rendono adattivi. Il museo di Zadig, i serpenti, chiamiamoli così, di Zadig, erano nate per essere traiettorie senza orientamento, la cui luce zenitale è stata occultata, per cui adesso quella è una balena che si mangia il filetto, è diventata insostenibile dal punto di vista energetico, perché è proprio tra gli edifici più energivori del mondo, perché sono state chiuse. Sono stati chiusi i lucernari, che erano praticamente delle righe di luce continue per tutti i serpenti, per un problema, diciamo, tecnico, tra virgolette, e per un problema anche di collaudo. Adesso noi entriamo nel merito di questa questione. Dopodiché, tutti quelli che dicono, ah, ma quel museo impone allestimenti, no, non è vero, quel museo come tutti i musei del mondo, se io vado a Palazzo Braschi oggi e mi vado a vedere una mostra del Parmigianino, sono costretto, ma questo è stato, guarda, io ti faccio vedere, ho fatto un allestimento nella sala della regina a Montecitorio, ho dovuto praticamente far finta che quella sala non esistesse e mi sono inserito con un'architettura dentro l'architettura. Se te lo vai a vedere nel mio sito, vedrai anche Alessandro De Giacomo, è qui che ha fatto il plastico della cosa. C'è stato, diciamo, un momento in cui il problema era come cancellare quello spazio così invasivo all'interno di una scrittura linguistica che doveva parlare la sua lingua e doveva poterla parlare non solo attraverso l'esercizio di sovrascrittura, ma mettendo un attimo in silenzio una cosa di 900 anni fa. Questo è il punto. Allora, il tema di Otintec, anche questo tema qui, secondo me è stato interpretato, non è stato interpretato questo progetto nel tempo all'interno del museo. Per quello che dico, io ho salutato oggi con grande entusiasmo l'idea che si possa fare i conti con questa architettura, ok, cercando di coglierne alcune potenzialità in un lavoro in cui nel momento in cui il museo si fa tante cose e viene abitato in molti modi diversi, quell'architettura deve potersi riesprimere attraverso, diciamo, un progetto che esalta alcune parti, ne cancella altre, per il momento li mette in stand-by. Quindi, diciamo, questo lavoro di sovrascrittura è fondamentale. E questa combinazione, parte, secondo me, tra la parte architettonica e i direttori, anche fondamentale. Certo, una possibilità, certo, di assolutamente sì, assolutamente sì. Non cancellando il progetto che ospita, ma esaltando. Sai, rispondo a Alice alla domanda. Io, ad esempio, parto sempre dello spazio dato. Normalmente non mi piace, non mi interessa mai cancellarlo, azzerarlo e ripartire, ma anzi cerco sempre di capirne il senso, perché anche a Pecci, per esempio, c'era questo progetto che si partiva da un'architettura di Gamberini, che era un'architettura innanzitutto con una metafora molto precisa rispetto al territorio, museo fabbrica, cioè era fatto di elementi quadrati che si dispiegavano in un movimento così un po' serpentino, ma che fondamentalmente tra la forma, il fatto di essere anche fatti di elementi prefabbricati, i lucernari tra luce di nord, erano assolutamente simili alle fabbriche anche del tessuto urbano, perché Prato è città che ha fabbriche dentro la città. Quindi è un elemento immediatamente familiare, con una sua rigidità anche di percorso, decidono di ampliarlo e chiamano un architetto che viene da tutt'altro contesto, Maurice Nio, che era, diciamo, olandese asiatico, e che lavorato principalmente su spazi commerciali e come anche infrastrutture. Sì, anche infrastrutture, esatto, perché infatti lo fanno un ponte. E lì cambia metafora completamente, perché lui abbraccia l'edificio Gamberini con questo semicerchio dorato e all'improvviso il museo diventa un'astronave, quindi una cosa aliena e o a terra o pronta a partire, quindi un grosso. Detto questo, comunque quello era il posto, quello era lo spazio, io sono entrata in uno spazio che per molti versi era stato negato, per esempio questa fissa di chiudere i lucernari ovunque, anche al mare, ovunque vai trovi queste cose, tutto scuro, tutto chiuso. E lì lo stesso, lì c'era stato da parte di mio, che anche lì avevo chiamato, interpellato, un discorso di rapporto per esempio interno e esterno che mi interessava, sia in termini di luce ma anche in termini di apertura sul paesaggio brutto. E, secondo me era un elemento che andava comunque rispettato, non negato. Cioè io cerco sempre di, a me non interessa, io non sono una fan del webcube, nel senso, certo, è molto comodo, ma non me ne importa nulla. Nel senso, io per esempio alcuni dei progetti che ho amato di più li ho fatti all'interno di spazi non d'arte, a partire da Conciliazione 5, ma poi, non so, Panorama l'Aquila, che era un progetto che si sviluppava in 24 siti della città, di cui credo solo due erano spazi museali, e adesso sono tutti spazi urbani o abitativi. E mi piace moltissimo lavorare su quello che mi si presenta. È chiaro che l'artista deve accettare questo dialogo ed esserne parte forte, parte attiva, però sono per me interessanti, non sono... Poi è chiaro, ci sono... è più un discorso spesso di... sai, tanto da committenza, quando si dicevo prima, di dialogo, molto spesso, per esempio, i musei sono fatti senza una reale committenza. Per dire, anche Zaha Hadid, il suo progetto è stato un progetto che non si è mai misurato con un direttore o una direttrice. È stato fatto tra la politica e l'amministrazione, ma mai con un esperto, con un direttore che parlasse con Zaha Hadid di quelle che potevano essere le esigenze di uno spazio. E così spesso accade. Io per esempio ho lavorato con Mario Cucinella su uno spazio a Bologna della Fondazione Golinelli, che nasceva con l'idea di essere uno spazio pop-up, che quindi era leggero, si smontava altrove. Poi questa cosa allo studio di fattibilità si è dimostrata non praticabile, quindi è diventato uno spazio permanente, però a quel punto mi hanno chiesto di interfacciarmi con lo studio e devo dire che alla fine è uscito uno spazio molto, molto onesto, molto utilizzabile, ma nelle sue piccole soluzioni anche che permettevano una grande flessibilità senza toccare il progetto di Lucinella, che era suo, reale, ma rispetto all'usabilità dello spazio lì pensavo, ecco, lì è interessante intervenire in dialogo quando il progetto viene realizzato, viene definito, no? Per il resto quello che trovo uso. Va bene, noi dobbiamo lasciare l'aula perché c'è una lezione per quelli che mi seguono, se due e mezza, i ragazzi hanno una lezione per il video sulla maniera e quindi... Allora, grazie. Grazie.